Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Il tema del 3% come parametro oggettivamente è un parametro anacronistico. Lo è oggettivamente. Mi fa molto piacere che voi applaudiate. Chissà, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, se Renzi lo ha detto anche nel vertice italo tedesco alla cancelliera Merkel. Io memoria di donna non me lo ricordo, magari lo dice domani nel Consiglio a Bruxelles, nel Consiglio europeo. Comunque, insomma, dice che è anacronistico, ma va rispettato questo parametro del 3%. Poi ne parleremo. Parleremo anche dei tagli della spending review che sta creando un po' di tensioni, un po' di contrarietà, soprattutto dai sindacati, ma non solo, si parla di 85.000 esuberi tra gli statali. Cercheremo di capirne qualcosa di più. Intanto sta scadendo in questi minuti l'ultimatum che l'Ucraina ha dato alla Crimea, visto che è sempre altissima la tensione in quell'area, ultimatum per il sequestro del comandante della Marina Militare dell'Ucraina. Quindi l'Ucraina ha dato questo ultimatum alla Crimea: liberatelo entro le 21 ora italiana, sono le 21.04, ma seguirò per voi man mano l'evoluzione, poi anche sentire naturalmente qualche corrispondente del Sole 24 Ore. E poi c'è da dire fra le notizie che Berlusconi non è più cavaliere da oggi, si è autosospeso dai cavalieri del lavoro, e quindi diventa anche un sinonimo in meno che abbiamo per definire Silvio Berlusconi. Ma adesso direi, prima di affrontare i vari argomenti in modo più approfondito, come sempre vi racconto la giornata di oggi. Tra l'altro, a proposito di tagli, ci avete capito bene qualcosa degli annunci, anche se Renzi ha detto poi a decidere la politica? Su questo argomento in particolare, se volete, potete scrivere i vostri commenti o sulla pagina Facebook di Effetto Notte, oppure attraverso i messaggi al 349-238-6666. Ucraina, alta la tensione in Crimea, in questi minuti scade l'ultimatum per liberare il comandante ucraino della Marina. Spending review, per ora l'elenco dei tagli, dice Renzi, ma poi decide la politica, e a proposito degli accordi europei afferma il parametro del 3% è anacronistico. Crisi, timori di Confindustria sulla ripresa, rischio un incremento del PIL superiore allo 0,5%. Evasione fiscale, accordo internazionale, lotta agli evasori, 44 paesi dicono sì allo scambio di dati. Berlusconi non è più cavaliere, presentata l'autosospensione dopo la condanna definitiva. Sciopero dei mezzi, oggi città nel caos, disagi da Torino a Roma. Pompei, il governo vara misure straordinarie. Partiamo quindi dalla politica italiana, dei conti pubblici, anche se vi dicevo scade in questi minuti questo ultimatum, ma sto guardando le agenzie, per ora per fortuna non sta succedendo niente. Dunque, alla vigilia del Consiglio europeo di domani e di venerdì dal Presidente del Consiglio Renzi arrivano rassicurazioni sui conti pubblici, che ha detto anche che il 3% anacronistico per quanto riguarda il taglio del cuneo fiscale, ci sono le coperture, e ribadisce appunto che ci sono queste coperture e che il 3% è, scusate, appunto, in anacronistico. Sentiamo. Quello elaborato da Cottarelli è un elenco delle misure, ma sui tagli decidiamo noi. Matteo Renzi rivendica sé la scelta finale sulla revisione della spesa pubblica improduttiva dopo le polemiche suscitate dalle anticipazioni del commissario alla spending review. Quanto alle coperture delle misure annunciate, il Premier poi garantisce esiste un ampio margine e il taglio dell'IRPEF nelle buste paga di chi guadagna fino a 1.500 euro al mese è solo un primo passo. Queste le rassicurazioni del Presidente del Consiglio, ma sul capitolo statali, sull'ipotesi di 85.000 esuberi al 2016, resta l'allarme dei sindacati. Camusso CGL parla di vecchia logica di tagli lineari. Che in Italia ci sia un bisogno di riforma della pubblica amministrazione, che dentro la riforma della pubblica amministrazione ci sia anche un intervento sulla qualità e quantità della spesa, non c'è dubbio. Mi pare che le cose annunciate ieri invece stanno nella vecchia logica. Le bozze sono bozze, minimizza il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Delrio, ma a creare scontento non è solo il fronte statali. I tagli ipotizzati da Cottarelli sono a 360 gradi, dai costi della politica alle pensioni, dalle forze dell'ordine agli enti locali, con un avvertimento che arriva dallo stesso Cottarelli: per il prossimo anno i risparmi della spending review non sono tutti disponibili per ridurre la tassazione. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Interviene alla Camera e al Senato in vista del Consiglio europeo, interviene ma non convince le opposizioni il Premier Matteo Renzi, anche se alla fine egli stesso fa una missione sul rapporto deficit-PIL. Il tema del 3% come parametro oggettivamente è un parametro anacronistico. Verificheremo se necessaria modifica dal 2,6 al 3%. Ma la posta in gioco alle prossime europee è altra, non il vincolo di bilancio, è la lotta contro i movimenti populisti e Renzi guarda in aula Lega e Movimento 5 Stelle. Non sarà un derby tra europeisti e antieuropeisti e c'è un unico modo per avere più euro in tasca, avere più Europa dentro le nostre istituzioni. Critiche da Forza Italia per Renato Brunetta, da Renzi non è venuta nessuna chiarezza sui conti, il Premier è stata una delusione, sul vincolo di bilancio interviene Alessio Villarosa del Movimento 5 Stelle. Il 2,6 di cui parla il Presidente Renzi è un previsionale del DEF dell'anno scorso. Noi attualmente siamo al 3%. Non vada in giro a raccontare fesserie agli italiani, cortesemente. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Ma secondo Confindustria sono a rischio le previsioni di un incremento del prodotto interno lordo superiore allo 0,5% nel 2014. Due tipi di fattori frenano la ripartenza dell'economia italiana, si legge nella congiuntura flash nel documento diffuso oggi. L'incertezza sulla solidità dello scenario globale e handicap competitivi. A gennaio la restrizione del credito è tornata a mordere, c'è scritto, con un ulteriore calo dello 0,3% dei prestiti. I pagamenti degli arretrati della pubblica amministrazione alle imprese sono arrivati lentamente a 22,8 miliardi di euro, così è precisato in questo documento. Sul fronte dei partiti a dominare resta il dibattito sulla candidatura di Berlusconi in Forza Italia per le europee, ex premier che tra l'altro da oggi non è più cavaliere. Come in un godown cominciato con la condanna definitiva ad agosto, Silvio Berlusconi perde uno dietro l'altro i suoi pezzi e ora non è più neanche cavaliere del lavoro. Prima di essere espulso dalla federazione ha voluto lui autosospendersi all'indomani della sentenza con cui la Cassazione ha confermato la sua incandidabilità per 2 anni. Nella lettera in cui rinuncia al titolo ricevuto nel 77, Berlusconi ricorda il ricorso a Strasburgo come l'istanza di revisione del processo, ultime battaglie contro una sentenza considerata ingiusta. Non più cavaliere, non più senatore, non più candidato, ma al suo nome Forza Italia non rinuncia. Sarà infatti nel simbolo del partito e potrebbe essere di nuovo anche in lista alle europee, ma accanto al nome della figlia Barbara o Marina. E Maria Stella Gelmini a riproporre un'ipotesi più volte ventilata eppure nel passato smentita, e lo fa ancora il consigliere Giovanni Toti. A me non risulta frena, ma secondo Gelmini la decisione verrà presa nei prossimi giorni e in ogni caso Forza Italia, dice, sarà favorevole alle figlie. Quanto alla possibilità per il cavaliere ormai sospeso invece di partecipare alla campagna elettorale, dipenderà dalla decisione del Tribunale di Sorveglianza di Milano il 10 aprile di mandarlo ai servizi sociali o ai domiciliari. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Questo per quanto riguarda Berlusconi e Forza Italia. Nel PD invece si è autosospeso il deputato Francantonio Genovese, accusato di truffa, peculato, associazione a delinquere, riciclaggio falso in bilancio. Se la Giunta per le autorizzazioni riterrà fondata la richiesta di arresto, il PD la voterà in aula. Questa è la linea del partito dettata dal portavoce della segreteria di Renzi, Lorenzo Guerini. 6 milioni di euro destinati alla formazione professionale in Sicilia, risucchiati invece da società riconducibili all'ex sindaco della città, Francantonio Genovese, attuale deputato PD. Questa è la tesi della Procura di Messina, che stamattina ha presentato alla Camera la richiesta di arresto per Genovese. Secondo l'impianto accusatorio, l'ex sindaco avrebbe gestito un ingegnoso sistema di società intestate a suoi familiari e stretti collaboratori allo scopo di intascare i finanziamenti pubblici. Peculato, truffa, riciclaggio e falso in bilancio, le accuse che gli vengono mosse. Grazie alle pressioni che era capace di esercitare, Genovese sarebbe riuscito a far finanziare decine di corsi gestiti da società a lui riconducibili e poi faceva lievitare i costi incassando rimborsi. Genovese, la politica ce l'ha nel sangue, figlio del senatore Luigi Genovese e nipote del più volte ministro Nino Gullotti, entrambi esponenti della vecchia Democrazia Cristiana. È stato assessore provinciale e sindaco a Messina, deputato regionale in Sicilia e dal 2008 membro della Camera dei Deputati, la cui commissione adesso dovrà decidere sull'autorizzazione all'arresto. Monica Ceravolo, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Siamo all'estero, resta molto alta, come dicevo, la tensione in Crimea, specie dopo l'ultimatum lanciato dall'Ucraina affinché la Crimea liberi il comandante della Marina ucraina che è stato sequestrato. L'ultimatum scade, vi dicevo, in questi minuti, avevano fissato l'orario alle 21 e intanto alle 20 ore italiana, circa un'ora fa, è iniziato il Consiglio di Sicurezza dell'ONU a porte aperte per parlare appunto di questa crisi in quell'area, e poi ne parleremo con il corrispondente da New York di Mario Pratero del Sole 24 Ore. Ma torniamo in Italia con lo sciopero nel servizio del trasporto pubblico locale, disagi che ha causato nelle principali città. Anche se l'adesione è stata inferiore alle aspettative, soprattutto a Roma, dove meno del 50% dei lavoratori ATAC ha finora sostenuto la protesta, lo sciopero nazionale di bus, tram e metropolitane costringe ancora turisti e pendolari a cercare soluzioni alternative. Lo sciopero dei mezzi pubblici, iniziato questa mattina e rivendicato dal sindacato come un successo, si svolge nell'arco delle 24 ore, dunque proseguono i disagi. A Milano le quattro linee della metro restano chiuse, mentre a Roma solo la linea A ha assicurato un minimo servizio fino alle 17.30 e dalle 20 potrebbe interrompere le corse. Chiusa la B. Muoversi con i mezzi sarà difficile fino a tardanotte. A Roma i varchi delle zone ZTL diurne sono stati disattivati, facendo registrare il successo dei servizi di car sharing. I disagi maggiori sono dunque per i turisti, anche per quelli che tramite cellulare cercano di avere informazioni sulle corse attive. Nella maggior parte dei siti delle compagnie di trasporto si segnalano ritardi senza specifiche. I disagi termineranno completamente solo domani mattina. Gli autobus circolano nelle fasce di garanzia con orari diversi da città a città. Dalle 19.30 in poi bloccata Bologna, Napoli e Roma dalle 20, Genova dalle 21. Disagi a Venezia per chi si sposta a terra, ritardi per i vaporetti. Francesco De Remigis, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Passiamo alle novità per Pompei. Rafforzamento della sicurezza del sito anche con vigilanti specializzati, 30 nuove unità di personale da Ales S.p.A., accelerazione delle gare per la videosorveglianza e una nuova recinzione. Queste sono alcune delle misure straordinarie prese oggi dal Ministero per i Beni Culturali nella riunione convocata dal Ministro Dario Franceschini dopo il furto a Pompei di questi giorni. Restiamo in Campania, in 10.000 a Casal di Principe in ricordo di Don Diana. La Camorra lo uccise 20 anni fa. Una manifestazione imponente. Secondo i carabinieri erano circa 20.000 i ragazzi che hanno sfilato lungo le vie di Casal di Principe per ricordare Don Peppe, il prete che per amore del suo popolo non ha taciuto. Dopo 20 anni, almeno oggi i venti del cambiamento e della speranza, quel silenzio spezzato dalla musica e dagli slogan, sembrano dare corpo e visibilità a qualcosa di nuovo e di buono. Non manca certo la consapevolezza che da fare c'è ancora tanto. Lo dice Don Luigi Ciotti, lo confermano il capo della procura antimafia Franco Roberti e i parlamentari che hanno partecipato alla manifestazione. Ma a ricordarlo c'è anche la cronaca che ci fa raccontare di un'aggressione razzista stamani nella stessa Casal di Principe contro un 14enne di colore, ma anche gli extracomunitari che lavoravano nei campi al comando dei caporali a poche centinaia di metri dal luogo in cui è terminato il corteo, e la gente che ha deciso di chiudere le finestre e voltare la faccia nonostante le esortazioni. Laura Vigiano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Casal di Principe. È tempo di chiudere questa prima parte, ma prima ci sarà Dario Ricci a aggiornarci sulle partite di Champions, varie serate di Champions, anche se le italiane, sapete, ormai sono completamente fuori. Dario. Eccomi qua, Roberta. Beh, direi partite interessanti finora, perché siamo intorno alla mezz'ora del primo tempo, sia a Dortmund, dove è in vantaggio lo Zenit San Pietroburgo, ha segnato Hulk, centravanti brasiliano, e ricordiamo all'andata vinsero i tedeschi in Russia per 4-2, e soprattutto è in vantaggio anche il Manchester United con l'Olympiacos. Gli inglesi devono rimontare il 2-0 dell'andata, bene, sono a metà dell'opera, perché al 23esimo un calcio di rigore di Van Persie li ha portati in vantaggio. Grazie Dario Ricci, poi ci risentiamo per parlare di Totti, varie notizie che lo riguardano, non soltanto di calcio. Adesso si ferma qui questa prima parte per quanto riguarda il riassunto della giornata. Tra poco comincerò quindi a approfondire con vari ospiti i vari temi, in particolare che ne pensate dei tagli annunciati dal commissario straordinario Cottarelli per la spending review, e adesso poi Renzi che ha detto, ma insomma questo, diciamo, sono le analisi tecniche, poi vediamo cosa decide la politica. Che ne pensate, ci avete capito qualcosa, condividete alcuni punti? Vedo già Oscar, per esempio, che scrive: mi chiedo perché in Inghilterra 500.000 persone hanno lasciato a casa e per noi 70.000 non è possibile, siamo destinati al tracollo, non cambierà mai nulla. Questa è la posizione di Oscar. C'è la viabilità tra poco. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Roberta Giordano sempre con voi, ve le ricordo le notizie principali prima di cominciare, come dicevo, ad affrontare alcuni temi di oggi. Ucraina, in questi minuti scade l'ultimatum alla Crimea per liberare il comandante ucraino della Marina. Continuo naturalmente a guardare le agenzie, per fortuna per il momento non è successo nulla. Spending review per ora l'elenco dei tagli, dice Renzi, ma poi decide la politica. E a proposito degli accordi europei, afferma il parametro del 3% è anacronistico. Evasione fiscale, accordo internazionale, lotta agli evasori, 44 paesi dicono sì allo scambio dei dati. Berlusconi da oggi non è più cavaliere, presentata l'autosospensione dopo la condanna definitiva. Sciopero dei mezzi, città nel caos, disagi da Torino a Roma e per quanto riguarda Pompei il governo vara delle misure straordinarie. E saluto subito con molto piacere Dino Pesole del Sole 24 Ore. Ciao Dino. Ciao Roberta, buonasera. Dino Pesole che ci dovrà aiutare a capire effettivamente in cosa consista questa spending review. Se il commissario straordinario Cottarelli ci ha cotti dallo spavento, nel senso che ha annunciato varie misure che hanno creato un po' di malcontento, soprattutto la notizia dei quasi 90.000 esuberi tra gli statali, che non si capisce se si intende buttarli fuori oppure fare delle manovre bene non so in quale direzione. Si parla anche di tagli alla sanità. Insomma, Dino, che ti sembra di questo quadro, di quello che è stato definito appunto Cottarelli mani di forbice? Beh, allora, intanto chiariamo qual è il ruolo e il mandato del dottor Cottarelli. Certo. Che è stato chiamato dal governo Letta da Washington, perché lui era capo del Dipartimento Fiscale e del Fondo Monetario, apprezzatissimo tecnico, ruolo che ha avuto per 20 anni, è stato chiamato in Italia per fare in primo luogo una ricognizione a tutto campo sulla nostra spesa pubblica, che lo ricordo ammonta oltre 800 miliardi di euro. Sulla base di questa ricognizione, che lui non ha condotto da solo, si è avvalso di un nutrito gruppo di tecnici e esperti della materia, ha presentato al Parlamento e al Governo una serie di possibili interventi. Allora, il problema di fondo quando si affronta la questione della spesa pubblica nel nostro paese, dobbiamo renderci conto che ci sono delle spese che sicuramente andranno ritoccate, perché sappiamo bene ci sono sprechi che albergano un po' ovunque, ma ci sono delle spese che francamente mi sembra molto arduo poter toccare, tra questi è inserita le pensioni. Allora, cosa fa Cottarelli? Presenta un ventaglio di proposte possibili. Dopodiché sta alla politica, al governo, al Parlamento, che dovrà varare un decreto, un disegno di legge, in cui dovrà indicare quali delle proposte del dottor Cottarelli condividere e quali no, e solo a quel punto potremo cominciare a ragionare nello specifico di cosa stiamo parlando. Quindi, insomma, credo che l'allarme sia abbastanza ingiustificato, perché per ora si tratta solo di proposte tecniche. Senti, Dino, la politica che decide. Certo, e poi sentiremo proprio la fase di Renzi, ma siccome l'invasione barbarica c'è la ministra della difesa Roberta Pinotti, si parla anche degli F-35, vediamo se riusciamo a cogliere il momento giusto, perché vediamo. Abbiamo punti di vista diversi, ci sono dei momenti in cui invece convergiamo, però devo dire, mi trovo. Ci racconta poi, perché sono più di 10 anni che lei si occupa di difesa, sì. È uno dei ministri dei quali nessuno ha potuto dire non è competente di difesa, lei. Però prima abbiamo delle cose di attualità di cui parlare. Beh, una che oggi sui famigerati F-35, lei sarà stufa di sentirne parlare, però oggi il capogruppo del PD in commissione difesa, Scanu, ha presentato le conclusioni di una loro indagine sui sistemi d'arma, secondo il quale il programma degli F-35 prevede molte criticità. E quindi ci faccia un po' di chiarezza, perché prima lei ha detto ma forse li tagliamo, e subito Renzi ha detto sì li tagliamo, Del Rio anche, poi lei ha detto no, non li tagliamo più, oggi invece cosa ci dice? No, io ho detto un'altra cosa, io ho detto è sbagliato parlare solo degli F-35, quindi io ho detto sì, noi dobbiamo ripensare, rivedere e ridurre complessivamente i sistemi d'arma. Quello che trovo sbagliato è ragionare su un solo programma, perché quello è diventato un po' l'emblema, diciamo, dell'aggressività. No, lo è perché caccia bombardieri. Perché è un programma costoso. Ma cosa servono i caccia bombardieri? Beh, di fatto i caccia bombardieri servono perché, a parte se tu hai delle truppe dove c'è necessità di avere una difesa aerea, però potrebbe succedere che qualcuno decide di sparare un missile magari. e potrebbe decidere, ormai ci sono dei missili che possono arrivare a distanze estreme, potrebbe decidere di volere con quello distruggere o ovviamente di creare. Oggi diciamo le armi purtroppo sono micidiali. Chi potrebbe deciderlo? Insomma, Dino, nessuno, ci stanno un po' girando intorno alla questione degli F-35, degli aerei da guerra, no? Sì, sì. Proprio insomma, diciamo che il tema di intervenire sui sistemi d'arma, come diceva il Ministro, è sul tavolo del governo. Secondo me non è una decisione che può essere assunta solo con l'occhio e lo sguardo rivolto a quanto si risparmia, ma anche ai possibili risvolti, perché questi sono ovviamente impegni che noi abbiamo assunto anche, come dire, a livello di sistema di difesa complessivo del paese, e quindi attenzione. Ma secondo me c'è un margine, stare molto attento dall'estendere il concetto dei tagli alla sicurezza tout court, perché ad esempio secondo me alcune spese, quella ad esempio relative alla sicurezza che viene svolta dalle forze dell'ordine, qui bisogna stare attenti, perché se continuiamo a tagliare poi alla fine non hanno più nemmeno le macchine da andare in giro. Insomma, per dire che, ritorniamo all'assunto di partenza, ai tecnici spetta di fare la ricognizione e presentare le possibili ricette. Poi la politica, e questa è un'attività politica di primissimo ordine, deve saper discernere e dire ok, qua si può tagliare, qua invece secondo me dovrebbe essere aumentata la spesa. Parliamo della ricerca, parliamo dell'innovazione, dell'istruzione, della scuola, Senti. Della scuola, noi siamo arrivati a dei livelli, grazie ai tagli lineari di tutti questi anni, pazzeschi, e quindi invece altro che spending review, sì, spending review al contrario, cioè occorrerebbe trovarli i fondi. Quindi, come dire, va benissimo mettere mano a 800 miliardi, perché lì qualcosa si può... Che è la spesa pubblica complessiva, dicevi. Però attenzione, molta attenzione a dove si va a colpire, perché poi non vorrei che a fronte di un abbassamento del prelievo fiscale, quale quello promesso dal governo Renzi, di 80 euro al mese per i lavoratori che hanno uno stipendio di 1.500 euro lordi, alla fine poi uno li vada a pagare con un taglio dei servizi sociali. Infatti, sarebbe veramente paradossale, gravissimo, questo, no? Per mettere 80 euro in busta paga dei lavoratori fino a 1.500 euro, quelli che guadagnano fino a 1.500 euro, però si va a tagliare da un'altra parte, non perché non possano ricevere 85 euro, ma perché sarebbe stupido, direi grave, andare a prendere da un'altra parte dove c'è bisogno invece di spesa. Sentiamo, a proposito dell'affermazione del fatto che per ora è solo un elenco ma ci vuole poi la decisione della politica, che cosa ha detto Renzi oggi in Parlamento? Abbiamo deciso di prendere questi 10 miliardi che derivano da un margine ampio che ancora abbiamo, sia in ordine alla spending, che presenteremo nelle sedi parlamentari come è giusto che sia, dopo una analisi politica, perché il commissario ci ha fatto l'elenco. Toccherà a noi, come parte politica, individuare dove tagliare o no. Se una famiglia non ce la fa più, è evidente che deve fare i conti in casa. Poi saranno il babbo o la mamma, il papà o la mamma a decidere cosa tagliare e cosa no. E quindi noi ci presenteremo in modo chiaro in Parlamento con l'elenco delle voci dove vogliamo intervenire e dove no. Ecco, quindi per ora, tra virgolette, ha rassicurato così Renzi, no? Dino, però poi anche a proposito dell'Unione Europea, anche se non l'ha detto secondo me alla Merkel, ma penso potrebbe cogliere domani l'occasione al Consiglio Europeo a Bruxelles, questa storia del 3%, sentiamolo. Il tema del 3% come parametro oggettivamente è un parametro anacronistico, lo è oggettivamente. Mi fa molto piacere che voi applaudiate. Ti fa piacere che si applauda, Dino Pesole? Sì, diciamo che il problema, il tema del 3% se ne discute da tempo, è un limite che è previsto dal Trattato di Maastricht, che è stato firmato nel 92. Vuoi spiegare in parole molto molto povere in che cosa consiste? Che tanti dicono, cosa significa questo rapporto PIL-deficit 3%? Dunque, uno dei parametri che ci siamo dati quando è cominciata l'avventura dell'Unione Economica e Monetaria, appunto nel 92, e in quell'occasione si stabilisce i paesi che avrebbero fatto parte di questa avventura avrebbero dovuto rispettare dei limiti, dei parametri relativi ai conti pubblici, il più rilevante dei quali è quello del debito, che non dovrebbe superare il 60% del PIL, e l'altro è il deficit, cioè vale a dire quello, la differenza tra entrate e uscite che lo Stato registra in un anno. Allora, si è stabilito, poteva essere 4, 2, si è stabilito il 3%, e quel limite è stato ribadito in tutte le successive revisioni della disciplina di bilancio europea, da ultimo il patto di stabilità, il fiscal compact, eccetera. Cosa accade? Accade semplicemente che i paesi che eccedono quel tetto vengono posti in una procedura di infrazione che può anche sfociare in sanzioni pecuniarie. Bisogna dire che la storia recente dell'Unione Europea ci racconta una vicenda un po' a doppia versione, a doppia, una medaglia a doppia faccia, perché ad esempio nel 2003-2004 furono proprio la Germania e la Francia a chiedere un momentaneo slittamento dei loro obiettivi di deficit, perché dovevano fare le riforme. Quindi voglio dire, se è una cosa che invece con la Grecia o con altri paesi un po' messi peggio, si è utilizzato un altro metro. Però detto questo, il limite c'è, è sancito da accordi internazionali, noi addirittura abbiamo fatto di più, abbiamo messo in costituzione il vincolo al pareggio di bilancio, e fino a che c'è questo limite, anche secondo me andrebbe rivisto, va rispettato. Dopodiché i margini si possono trovare altrove. Leggo alcuni messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte a proposito dei tagli della spending review. Dice Donata: magari si mandasse a casa qualche statale nulla facente. Giuseppe: Renzi ha sbagliato partito e gli elettori PD hanno sbagliato leader, quindi evidentemente lo considera forse di destra. Nicola: ma si parla di riprese, adesso aumentano la disoccupazione con questi tagli, i loro privilegi neanche una parola. Joseph dice: sono solo annunci. Massimo: penso che la putrescente sinistra, sinergia politico-sindacale, non permetterà che si possano intaccare i privilegi del proprio bacino clientelare elettorale. Quindi qui qualcuno ce l'ha con gli statali. Mentre scrive Silvia: secondo me Cottarelli non ha ancora capito che il primo settore dove fare tagli sono gli emolumenti dei politici, basta con i privilegi della casta. Mi pare che l'abbia annunciati, giusto una frase, una cosa su questo. Anzi no, parlava di delle province, ma di una riforma delle province, non di eliminarle, di abbassare gli emolumenti dei consiglieri regionali. Qualcosa ha detto, poi bisognerà vedere nel concreto, per chiudere Dino Pesole. Sì, sì, certo, questo è un tema che comunque suscita sempre molta attenzione da parte dell'opinione pubblica, e certamente la politica deve dare il buon esempio, perché non è che si può proporre tagli così indifferenziati, e poi i tagli sono sempre, vanno sempre a colpire, non sono mai indolori, e poi però si conservano i privilegi. D'altro canto occorre osservare che non è che con il taglio degli stipendi dei parlamentari risolviamo i problemi della finanza. No, quello pubblica è vero, anche se ogni volta si dice questo e potrebbe essere per loro una buona giustificazione per non farlo. Cominciamo da lì, piccola cosa di qua, di là, di su, di giù, si somma il tutto e forse una qualche buona cifra prima o poi si tira fuori. Sai, soprattutto in momento poi di crisi, l'abbiamo detto tante volte, insomma, crea sicuramente molta irritazione, molto sdegno, no? Poi vedere anche come hanno sperperato, specie nei consigli regionali, tanti soldi pubblici dei contribuenti. Dino Pesole, a presto, grazie. Grazie a voi. Ciao serata. Dino, buona serata. C'è la pausa per la pubblicità, stavo vedendo ancora qualche messaggio, magari ve lo leggo dopo. Potete continuare naturalmente a scrivere sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Abbiamo pochi istanti, a dopo. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Sarò breve con le notizie in 6 secondi, così possiamo subito parlare di Ucraina e di questo ultimatum, una tensione che cresce man mano, ma vi ricordo appunto che c'è questa situazione difficilissima in Crimea. I russi occupano delle basi ucraine, Kiev sfida Mosca e chiede una Crimea demilitarizzata, e in più c'è appunto l'ultimatum per la liberazione del comandante della Marina ucraina. Spending Review, per ora c'è solo l'elenco dei tagli, Renzi dice che poi interverrà la politica, e a proposito degli accordi europei afferma che il parametro del 3% è anacronistico. Berlusconi non è più cavaliere, presentata l'autosospensione dopo la condanna definitiva. Sciopero dei mezzi, oggi grande caos nella gran parte delle città, e per Pompei il governo vara misure straordinarie. Oh, finalmente abbiamo raggiunto Mario Platero, corrispondente da New York del Sole 24 Ore. Ciao Mario. Eccoci, come stai? Bene Mario, tu hai notizie da cosa sta succedendo al Consiglio di sicurezza dell'ONU in questi momenti? La riunione prosegue, devo dirti la verità, abbiamo avuto le dichiarazioni di Samantha Power, che è l'ambasciatore degli Stati Uniti all'ONU, il rappresentante permanente. Insomma, ha fatto delle dichiarazioni provocatorie, ha detto insomma noi qui andremo avanti e se sarà necessario prenderemo delle altre misure. Io dico con grande sicurezza e chiarezza che un ladro può rubare, ma questo non gli dà il diritto alla proprietà. Ecco, sono parole forti, una retorica forte, tipica tra l'altro della rappresentante permanente, ma torniamo al punto di partenza, che l'America parla, usa una retorica a volte anche aggressiva e Putin agisce. Oggi ha preso le basi militari, come hai detto poco fa, ha arrestato l'ammiraglio, il capo della marina ucraina, è prigioniero. E cosa si può fare? Molto poco. Abbiamo il vicepresidente degli Stati Uniti, Joe Biden, che nella regione è andato in visita, è andato in missione in Lituania, in Lettonia, Estonia, sta cercando di visitare i paesi baltici per rassicurarli, e anche lui ha usato una retorica forte. E il problema però è molto delicato, perché non si capisce bene quale sarà la via d'uscita. Intanto le Nazioni Unite, il Consiglio di sicurezza può riunirsi finché vuole, ma nel momento in cui ci sarà una mozione presentata agli Stati Uniti, non solo di condanna, ma magari anche qualche cosa di più, ci sarà il veto di Mosca, come è già successo prima, e quindi lascerà le cose esattamente come stanno. Anche perché, Mario Platero, scusami se ti interrompo, ma si è parlato in questi giorni continuamente da una parte e dall'altra della necessità del dialogo, però ormai sia l'Occidente che la Russia sono entrati in una spirale di contrapposizione durissima, no? E poi Mosca, ogni annuncio, adesso si parla di un annuncio delle sanzioni di terzo livello da parte dell'Occidente, Stati Uniti, Europa, e Mosca fa sapere che risponderà pan per focaccia, no? A queste sanzioni. Sì, e qui si innesca il rischio economico, perché intanto le sanzioni ovviamente fanno male alla Russia, perché comunque la Russia ormai si era inserita in un contesto di economia globale, nel medio-lungo termine queste sanzioni possono lasciare il segno, ma tu pensa cosa succede se i corridoi energetici dovessero bloccarsi, nel momento in cui per esempio l'Europa sta cercando di riprendersi, insomma c'è tutto il cotè economico, la borsa tra l'altro oggi ha reagito male quando abbiamo avuto le notizie di questa escalation, da uno 0,2% di perdita in reazione alle dichiarazioni della Yellen che tagliava di altri 10 miliardi di dollari gli interventi sul mercato. Presidente della Banca Centrale Americana. Quando le notizie politiche siamo andati 0,4, 0,5, 0,6, insomma chiuso meno 0,7%. Ti dicevo, il problema è che non c'è una chiara via d'uscita. Prima sembrava che ci fosse un'uscita diplomatica. Cioè Putin prende la Crimea, poi si mette d'accordo con l'Ucraina e a quel punto più o meno, se c'è un accordo fra loro, per l'America va bene. Quindi la via d'uscita Obama l'ha data a Putin, ma Putin non la prende. A questo punto sono due rischi. Se c'è un'escalation militare, come per esempio ha detto Joe Biden, dice noi dovremmo rafforzare le posizioni della NATO alla frontiera, faremo venire delle truppe. Questo dà la scusa a Putin per essere ancora più aggressivo, certo, sul fronte dell'Ucraina, e quindi c'è questa minaccia che diventa concreta, lui si deve difendere. Insomma, è un'escalation che per ora non ha molta via d'uscita, e temo che insomma i mercati cominceranno a soffrire anche loro. Tra l'altro, per chiudere, Mario Platero, ti dico solo che questo può innescare anche un processo a domino, nel senso che c'è una regione della Moldavia, che mi è difficile pronunciare, ma si chiama Transdnistria, che a sua volta ha chiesto a Mosca l'annessione, l'adesione alla Russia. Quindi se inizia così, insomma, potrebbero essere varie altre regioni, ex repubbliche sovietiche. Ci sono state già altre regioni minori in passato, nell'anno scorso, che hanno fatto la stessa cosa. La Transnistria è un'altra, che appunto è una regione della Moldavia. Quindi diciamo siamo in una situazione parecchio difficile, perché se tu guardi la mappa della regione, per esempio nei Baltici, Estonia, Lettonia, Lituania, 25, 27, 23% della popolazione è russa. E allora che succede? Come si reagirà? Insomma, Putin sta giocando al rialzo. Non crede alle minacce degli Stati Uniti, giustamente, perché nessuno vuole la guerra, D'altra parte sarebbe folle, credo anche da parte di Putin, volerla lui stesso, insomma. Quindi siamo in un impasse, siamo in un'escalation. La settimana prossima sarà importante, Barack Obama sarà in Europa, ci sarà un vertice nucleare all'AIA, dovrebbe venire anche Putin, beh, forse avremo delle scintille. Ma staremo a vedere. Grazie Mario Platero intanto. Grazie Mario. Grazie a voi. Ciao Roberto. Prima di presentarvi la prossima ospite, sentiamo ancora qualche passaggio adesso all'invasione barbarica di Roberta Pinotti, ministra della Difesa. Andare, per favore, lui a raccontarmi in modo che io poi potessi intervenire con la questura, insomma, capire cos'era successo. Lui quindi era entrato. No, sta parlando di altre questioni che non riguardano, insomma, credo vicende nazionali di massima importanza. Saluto allora Doris Lo Moro, senatrice del PD. Grazie per la pazienza. Era in attesa. Buonasera. Ma d'altronde qui sembra che ci sia da aspettare che le donne in Italia e le politiche anche debbano avere molta pazienza, perché qualcuno dice vabbè, dei primi passi sono stati fatti, oggi è stato trovato al Senato l'accordo per l'introduzione della parità di genere, non nell'Italicum che come sapete è saltata più volte, ma nelle liste per le elezioni europee. In occasione della prossima consultazione del 25 maggio la norma sulla parità di genere sarà transitoria, poi sarà definitiva nel 2019, quindi quando si tratta di donne, senatrice Lo Moro, diciamo, si può attendere senza problemi. Diciamo che questa è la realtà dei fatti, ma non sono né le mie aspirazioni né la strategia che io sceglierei, perché se c'è una cosa che è di tutta evidenza, che su questi temi, ma anche su temi più vasti che hanno a che fare con i diritti, con il cambiamento, si è molto lenti in Europa e si è lentissimi in Italia. Del resto anche la storia dei fondi europei mal spesi dice la stessa cosa, che noi non siamo capaci di andare veloce su certi temi e nemmeno non abbiamo questa capacità di gestire con velocità i problemi. Speriamo che questo momento che stia vivendo anche il governo italiano, con un premier che sembra caratterizzato da un'estrema capacità di decidere, di andare avanti rapidamente, ci condizioni positivamente, se non altro per questa attitudine. Ma sul tema delle donne devo dire che da relatrice dovrei dichiararmi soddisfatta, perché porteremo a casa appunto una norma transitoria che già da subito introduce il principio, il criterio della preferenza di genere, che a regime, a partire dalle prossime consultazioni, non quelle del 25 maggio ma quelle del 2019, e stabiliranno invece, introduce temi e limiti nella formazione delle liste, che dovranno essere paritarie 50-50, e limiti anche nell'espressione, o meglio opportunità nell'espressione delle preferenze, che dovranno essere tre se rimarranno tali, ma almeno una di queste dovrà essere di genere diverso, altrimenti c'è la penalizzazione delle seconda e terza preferenze che non saranno valide. Nell'immediato invece si è ottenuta soltanto intanto l'introduzione del principio della preferenza di genere, ma soltanto la terza preferenza viene considerata non valida, il che significa che ha ammesso il voto di due donne o di due uomini che siano, di due persone dello stesso genere, soltanto la terza preferenza deve essere di genere. Lei ha ricordato giustamente che lei è la relatrice su questa questione della parità di genere nella legge elettorale per le europee, anche se, mi perdoni se lo dico, Doris Lo Moro, però sembra sempre che le donne alla fine si debbano accontentare di passi anche che arrivano da qua alle calende greche. Il 2019 può sembrare per qualcuno vicino, per chi vive adesso nel presente, insomma sono altri 5 anni, no, che devono passare. Ma io da relatrice ho raccolto quello che era la volontà della maggioranza che si è creata in aula, che va molto al di là anche dello schieramento del governo, perché include anche Forza Italia, l'opposizione, cioè Forza Italia. Però devo dire che l'ho detto anche con molta tranquillità, perché era il prezzo che dovevo pagare per restare relatrice, e io non ho accettato questa soluzione perché è stata scelta a maggioranza dal gruppo parlamentare del PD al quale appartengo, per il quale io sono capogruppo nella Commissione Affari Costituzionali. Io non ero della stessa opinione, l'ho detto con trasparenza, perché il fatto che i tempi siano così lunghi mi fa dire che si tratta, non so bene se di una mezza vittoria o di una sconfitta, lo vedremo dai risultati. Certo, l'unico dato sicuramente positivo, e comunque volendo cogliere qualcosa di positivo, perché altrimenti non avrebbe senso, è intanto che il principio della presenza violenza di genere viene introdotto con i limiti che ho già esposto da subito, e poi che questa votazione del Senato non potrà non incidere su quella che sarà la votazione immediatamente successiva, cioè sull'Italicum. Anche quindi sull'Italicum, quindi anche sulla legge italiana, cioè nel senso quello che riguarda il Parlamento italiano. Ci troveremmo in una situazione molto particolare, che con la legge che abbiamo votato nella XVI legislatura si è introdotta la preferenza di genere per i consigli comunali e si è data la stessa indicazione per i consigli regionali. Con una legge che abbiamo introdotto adesso si è introdotta la preferenza di genere con tutti i limiti del caso per le europee. Vorrei capire come si potrebbe mai ignorare il tema sull'Italicum. Doris... tra l'altro non ha il problema dell'immediatezza, perché nessuno sta dicendo che stiamo andando al voto, quindi non ci sarebbero scusanti. Infatti, per dire, non c'è tempo. Doris Lomoro, proprio abbiamo 13 secondi, se rispiega chi ascolta, quindi adesso che si voterà il 25 maggio per le europee, che cosa è previsto? Che ci sia, secondo questa norma transitoria, che prevede le tre preferenze, si vota con tre preferenze, si possono fare tre preferenze per le europee, non possono essere tutte dello stesso sesso, le prime due sì, ma la terza no, anche se anche lì ci saranno capilista uomini, il secondo sarà un uomo, pure se mettono terza la donna, è probabile che non passi, o no? È esattamente come lei dice. Beh, e devo dire anche che comunque era peregrina la mia battaglia, che andava in altra direzione, perché oggi si cominciano a conoscere i nomi dei candidati e nemmeno nei partiti che di più rispettano normalmente questo principio c'è la lista paritaria. E, quindi, e poi c'era la lobby, l'ho detto anche in aula, degli europarlamentari più uscenti, che le lobby sono tutte potenti, anche quella è stata molto potente ed è molto maschile. Molto maschile. Senatrice, più che augurarle insomma di essere tenace, di non demordere. Grazie Doris Lomoro, grazie. Grazie a voi. Buon lavoro. Buonanotte. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Parlavamo di elezioni europee, di parità di genere, eccetera, quindi tra pochissimo il nostro appuntamento con l'Europa. Vi ricordo, c'è alta tensione in Crimea, i russi occupano basi ucraine, Kiev sfida Mosca e chiede una Crimea demilitarizzata. Renzi all'Unione Europea assicura: rispettiamo il tetto del 3%, ma anacronistico. A Bruxelles nessuno ci fa le pulci, avanti con le riforme. Berlusconi si sospende da cavaliere, c'è il nodo delle liste per l'Europea, accordo sulle quote rosa, ma solo, come vi dicevo e come sentivate, dal 2019. Spending review, 6 miliardi a rischio nel 2015, sindacati e l'attacco soprattutto sui previsti 85.000 esuberi degli statali. Ma parliamo, vi dicevo appunto, di Europa. Betta Fiorito intervista Simona Bonafede, il PD, sull'incontro di Renzi con la cancelliera Merkel e sul ruolo che l'Italia poi deve giocare in Europa. Europa 24 notte verso le europee. Buonasera da Montecitorio per il nostro spazio sull'Europa. Abbiamo con noi questa sera Simona Bonafè del Partito Democratico, membro della Commissione Attività Produttive. Buonasera. Buonasera, buonasera anche agli ascoltatori. Allora, c'è stato questo incontro Merkel e Renzi a Berlino, c'era molta attesa, a quanto pare i toni erano molto cordiali, però poi fondamentalmente la Merkel non ha fatto nessuno sconto agli italiani. Beh, intanto cominciamo col dire che siamo molto soddisfatti di questa grande apertura di credito da parte della cancelliera nei confronti del premier Renzi e anche del nostro paese. Questa è la dimostrazione che il processo di riforme e di grande cambiamento avviato con il pacchetto di misure dell'ultimo Consiglio dei Ministri vuol dire che è nella direzione, che va nella direzione giusta. Ecco, però l'opposizione ha detto: ma la Merkel ha detto le stesse cose a Monti e a Letta, qual è stata la novità? Ma comunque io direi che intanto dobbiamo concentrarci sul grande pacchetto di misure economiche, di misure che è stato messo in campo. E guardi, io penso anche che se noi rimettiamo in condizioni l'Italia di crescere, possiamo avere voce in capitolo per costruire un'Europa che diventi un luogo di speranza e di futuro e non come oggi un luogo semplicemente di rigore e governato poi solo dalla politica del rigore economico e dalle banche. Infatti Renzi ha ha parlato addirittura di nuovo rinascimento industriale europeo. È arrivato il momento di chiederci quali sono i settori sui quali vogliamo puntare. Io credo per esempio che il Made in Italy sia uno degli asse strategici del nostro paese sul quale investire profondamente, e penso al turismo, sul quale potremmo fare un investimento ben maggiore di quello che è stato fatto in questi anni e che potrebbe anche questo essere considerato una delle leve dello sviluppo del nostro paese. Renzi, davanti alla cancelliera Merkel, ha detto chiaramente che la riforma del mercato del lavoro va fatta perché fino adesso questo mercato del lavoro regolato da vari contratti e poi essendo particolarmente rigido non ha avvantaggiato l'occupazione. Ecco, lei cosa ne pensa? Bisogna andare verso un mercato del lavoro più flessibile come ci chiede poi anche l'Europa? Ci sono più politiche che possono permettere di aumentare l'occupazione, cioè non è pensabile oggi in Italia avere più di 40 tipologie contrattuali diverse, non è accettabile, quindi lo sforzo sarà quello di ridurre il numero di tipologie contrattuali, di semplificare anche sul piano burocratico e degli adempimenti le normative sul lavoro, di creare una giustizia un po' più efficace ed efficiente, che questo è un altro grosso problema che blocca le aziende. Insomma, siamo andati a toccare il mondo dell'apprendistato, il mondo dei contratti a termine, molto altro doveva essere fatto, però ecco, sono indubbiamente, credo che il tema del lavoro e della lotta alla disoccupazione siano temi centrali. Ringraziamo allora l'onorevole Simona Bonafè, ricordiamo membro del Partito Democratico e della Commissione Attività Produttive, per questo spazio Europa e per essere stata con noi. Grazie, arrivederci. Europa 24 notte, in collaborazione con Euronet Plus. Dario Ricci, ciao. Eccomi, Roberta. Adesso basta, esigo rispetto. Non mancherò. No, questo l'ha detto Francesco Totti, non io. Ah, questo l'ha detto Totti. Capitano della Roma, che ha detto basta col gossip sulla mia vita, sulla mia privacy, si parla dei miei amori, di quelli di Ilari, che ci siamo lasciati, eccetera. Adesso basta, perché questo influisce poi anche sul mio equilibrio calcistico. Beh, insomma, quello ci può stare, no? Perché tutto sommato oggi gli è stato attribuito un altro flirt, quindi insomma è sempre complicato gestire queste cose a bordo campo. Diciamo che l'argomento centrale, tu che fai a bordo campo, per l'appunto, l'argomento centrale era il fatto che potrebbe andare al campionati mondiali in Brasile, far parte della nazionale, insomma, nonostante abbia i suoi 37 anni. C'è una longevità anni adesso nel mondo del calcio e non solo, nello sport, incredibile. Come la vedi questa possibile? Se c'è un mondiale che potrebbe essere ideale per Totti, che tra il resto campione del mondo già lo è in Germania nel 2006, è proprio quello brasiliano, perché si preannuncia, così come per Cassano, no? I piedi buoni ci aiuteranno a risparmiare tanta fatica in un clima sicuramente difficile, quindi se Totti dovesse star bene, e visto che invece molti dei nostri attaccanti benissimo non stanno, perché no? Ma che dico? Allora, Cassano, diciamo, non mi è di questa simpatia pazzesca, anche certe sue esternazioni, però, anche un po' discriminatorie, eccetera. Quindi Totti mi è più simpatico al di là della sua vita privata, ma la differenza è che Cassano mi pare sia stato almeno nominato, c'è stato un accenno da parte di Prandelli, mentre Totti è vero che si è autocandidato. Ma diciamo che il discorso Totti all'inizio della stagione era comunque ancora aperto, poi ci sono stati un paio di infortuni che hanno raffreddato questa pista. Il CT Prandelli onestamente difficilmente ricorrerà a Totti, però, a fronte di 2 mesi di campionato eccezionali, il mondiale in fondo sono 7-8 partite, e quindi un campione come Totti dovesse star bene potrebbe risolverne almeno un paio di queste. Mancano 20 secondi, dimmi quando lo sapremo. Lo sapremo entro i primissimi di maggio, quando bisognerà consegnare almeno la lista dei 30. Bene, ci sentiremo prima con Dario Ricci, grazie Dario, e noi ci sentiamo veramente tra pochi istanti.